Tutti inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. E, ovviamente iniziamo con quella che è la sigla di questo programma, Retribution dei Behind Enemy Lines. Retribution begins. Each day claims a life and a half dozen limbs. Violent backlash. Bombs were falling, turned into a bloodbath. Occupation of liberation. Nation building, made over by desperation. Trapped in this wild fire. Bands for town and good fuel on the fire. See a blood flood, the occupied land. While a village and police were in the sand. And the presidential sandbox. La sigla di questo programma che è Zardins Magnetics, come vi dicevo prima, siamo in diretta radiofonica come un giovedì dalle ore 20 alle 21.30 qui dal studio di Radio Fondo Furlane. Buonasera e mandi a tutte e a tutti, anche da parte mia. Stasera parleremo di resistenza e di antifascismo. Cercheremo di farlo in un'ottica nostra, mettendo in evidenza alcune idee che secondo noi sono ancora di guida e valgono più di tante parole. Selva di Tarnova, altipiano della Bensizza. Siamo a pochi chilometri in linea d'aria da Gorizia, ma in una zona impervia, un'ampia foresta simile alla taiga finlandese, con pochissimi centri abitati isolati. Nella notte fonda tra il 18 e il 19 gennaio del 1945, alcune formazioni guerrigliere di partigiani sloveni, con la neve alta e il gelo intenso, investiti di stracci recuperati, artiglieria autocostruita e in condizioni di rifornimento proibitive, in mezzo a tutto questo, i partigiani attaccano il presidio militare, ovvero una casermetta principale e numerosi fortini, dei fascisti della decima MAS nel villaggio di Trnava, appunto, in sloveno Trnava. Precisiamo subito, il nostro criterio di giudizio su questo fenomeno storico non è quello dell'efficienza militare, il nostro criterio è quello della coesione politica. Vittorie come questa dei partigiani sulla decima MAS dimostrano che nonostante i limiti di preparazione tecnica e di maturità politica, i singoli partigiani, considerati nella loro unità base, la banda, funzionavano meglio delle unità convenzionali dell'esercito e organizzate secondo il principio dell'autorità. Il sapere guerrigliero dei partigiani fu il risultato di una combinazione imprevedibile di scambio immediato di informazioni ed esperienze, di sincerità, di nobiltà di intenti, di mancanza di spirito di concorrenza e di attaccamento alla proprietà individuale. Il sapere guerrigliero può essere sintetizzato così: principio di rapidità di azione, tattica di attacco a sorpresa, tiro a breve o brevissima distanza, unità schierate su fronti ampi che facilitano lo sganciamento improvviso, secondo un criterio di dispersione organizzata. L'effetto di tutto ciò sul nemico è un senso di vuoto e di attesa continua. A questo tipo di sapere giunsero dunque le bande partigiane. Elaborato un sapere elaborato e tramandato orizzontalmente tra individui comunque predisposti all'intransigenza nei confronti dello strapotere di apparati statali autoritari. Nell'altipiano i partigiani si trovavano circondati tutto attorno, diciamo alle pendici dei rilievi, da concentramento di truppe e da fortificazioni nemiche che bloccavano l'accesso dei rifornimenti alla zona libera. Da parte nazista c'era l'intenzione di rastrellare il territorio e coprire la ritirata dei Balcani da eventuali sbarchi alleati in Alto Adriatico. Nonostante ciò, le unità partigiane scelsero la tattica offensiva, decidendo di eliminare il presidio di Ternovo tenuto dal battaglione Fulmine della divisione decima MAS, di circa 250 uomini armati. L'attacco a Ternovo iniziò il 19 gennaio 1945 alle 3:30 del mattino. I combattenti della Kosovelova Brigada attaccarono con successo, anche se privi di armi pesanti, e il giorno successivo soltanto una sessantina di fascisti risultarono validi al combattimento, gli altri erano morti o feriti. La brigata Piccelli della divisione Garibaldi Natisone partecipò in copertura sul versante di Dolegna Trebusa. I tedeschi mandarono una colonna motorizzata da Gorizia, ma furono respinti dalla Gradnikova Brigada. Il giorno successivo mandarono all'attacco 700 uomini con l'appoggio dell'artiglieria, ma furono di nuovo fermati sul San Gabriele. Di nuovo i tedeschi attaccarono, inviando da un altro versante un battaglione di SS, mentre contemporaneamente la Gradnikova Brigada fu attaccata con l'aiuto di carri armati dai battaglioni Sagittario e Barbarigo, sempre della decima MAS. In quell'occasione i tedeschi approfittarono di una disattenzione della Gregorčičeva Brigada e penetrarono di notte a Ternovo, passando per Vitoglie e Krnica. A Ternovo trovarono vivi soltanto 35 soldati italiani e ritornarono precipitosamente a Gorizia senza fermarsi nel villaggio, che insieme a tutto il circondario rimase zona libera. Let's go! Dunque, questa sera abbiamo brevemente ricordato una vittoria partigiana sui fascisti a Ternova. Qui in conclusione un'ultima considerazione a proposito di ricordi e commemorazioni. La storiografia ufficiale e ancor più il contrarsi della memoria popolare e collettiva sulla istituzionalizzazione antiquaria degli eventi collettivi tende a conservare i ricordi come fenomeni di ripiegamento nella sfera personale del lutto e della pietà, per cui vengono commemorate prevalentemente le date e gli anniversari in cui i propri cari sono rimasti vittime dell'oppressore. Invece è importante per noi che anche sul campo della memoria vada condotta costantemente una lotta per l'affermazione dei principi di solidarietà, sensibilità e azione diretta, affinché i fenomeni storici siano esempi da cui trarre insegnamento per il presente, effetti in sé amuleti da cui far scaturire l'azione in ogni tempo. Per questa sera abbiamo finito. Un caro saluto e a risentirci la prossima volta. Intanto stiamo ascoltando in sottofondo, e anche abbiamo ascoltato prima durante l'intervento, questa band croata, esattamente di Pola. Loro sono in Nulla Osta e questo è il loro album, il loro split 12 pollici uscito nel 2013, che si intitola Bastard Music for Bastard People. I'm not Ciao a tutte e a tutti anche da parte mia. Esordisco con un Morte ai fasci, che ci sta sempre bene, e dopo questo intervento appunto di approfondimento storico alla nostra maniera, l'intervento che seguirà, che è sempre un intervento diciamo non in diretta, è una testimonianza che è stata raccolta da Radio Onda Rossa qualche giorno fa, la testimonianza di della madre di un detenuto trasferito da Rebibbia, sezione maschile, al carcere di Mamma Gialla, in seguito a una rivolta pacifica all'interno del carcere stesso, sempre per motivi di mala sanità. Questo prigioniero era intervenuto così per mediare, diciamo, tra le guardie e gli altri rivoltosi, e poi è stato massacrato praticamente e infine trasferito. Insomma, c'è questa testimonianza, l'ennesima testimonianza di soprusi, maltrattamenti e violenza di Stato all'interno degli istituti penitenziari. E sì, approfitto per dire, prima che parta questa testimonianza, cioè è un po' la registrazione è un po' sporca, nel senso che appunto ci sono anche gli interventi della conduttrice del programma Silenzio Assordante, e poi oggi, come anche forse l'altra volta, così, cioè, stiamo anche noi un po' trasmettendo in una situazione un po' precaria, nel senso che siamo in uno studio provvisorio all'interno di Onde Furlan, e quindi a certe volte possono scappare alcuni errori così di messa in onda. E allora 17:06 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante. Stiamo parlando ormai da un'oretta della situazione a Rebibbia. Che si aggravasse la situazione era prevedibile, e la risposta è stata feroce da parte di chi gestisce il controllo sul carcere. Abbiamo un'altra testimonianza, ti lasciamo un po' la parola per raccontarci quello che ti sta riguardando in prima persona. Pronto? Pronto. Sì, ecco. E se ti va, insomma, abbiamo un po' accennato alla storia che riguarda te, una tua persona cara, e sì, abbiamo provato a raccontare quanto è avvenuto al G12 tra corridoi e celle, in risposta ovviamente all'esigenza di salvarsi la vita da parte dei detenuti. E se ti va, abbassa la radio, perché altrimenti ritorna dai microfoni. E se ti va, insomma, raccontaci quello che vuoi. Sappiamo che è un momento difficile, e quindi se ti va, racconta quello che preferisci. Ok, grazie, gentilissimo. Sono Cristina, la mamma di Pierpaolo Cipolloni, il ragazzo che è stato malmenato e che cercava di fare da piacere. Quello che sento ora di raccontarmi in questo dramma, in queste 24 ore vissute nella paura di come fosse accaduto a un figlio di 26 anni, è sentire una telefonata alle 11:30 di disperazione di mio figlio, che mi ha chiamato: ah, ieri sera è successo un macello, stavamo facendo una protesta pacifica, io come portavoce del G12 del piano suo e l'altro del primo piano hanno richiesto di fare questa protesta già da giorni, pacifica, e gli è stata accordata in qualche modo dal responsabile del reparto, il capo della penitenziaria, e quindi lui si trovava nel momento in cui stavano protestando sul cancello, nel corridoio adiacente nel carcere proprio, che poi dopo al di là c'è la penitenziaria, e stavano protestando per chiedere appunto il dottore che entrasse di nuovo il garante, perché Pierpaolo è uno di quei tre ragazzi che hanno fatto arrivare 3 mesi fa il garante dottor Stefano Anastasia sino al G12 a far vedere le condizioni in cui vivono, e quindi spiegava appunto che voleva il garante e un dottore, perché la situazione di chiuderli per tante ore non era più possibile in quanto erano tanti positivi. E io gli ho chiesto: ma te l'hanno fatto il tampone? Lui mi ha detto: ma me l'hanno fatto il tampone, ma non mi hanno dato il risultato, mi hanno caricato, mi hanno massacrato, non so quant'erano, la prima manganellata gliel'hanno data attraverso il cancello sulle mani per farlo scendere dal cancello, e da lì lui è caduto, hanno aperto i cancelli, sono entrati con gli idranti, mi ha parlato degli estintori, non si respirava e non si vedeva, è stato caricato e ha detto ricevuto tante di quelle manganellate. Con voce rotta mi ha detto: ma non ti preoccupare, fatte forte tu per me. Sei forte, mi ha detto. Queste sono state le parole di mio figlio. E da lì poi gli ho chiesto come stava, mi ha detto: sono tutto un bozzo, tutto un livido. Ho tentato il suicidio, ho minacciato con una lametta, perché la cosa grave in tutto questo è che a noi non fanno entrare le lamette, il dentifricio, non fanno entrare determinati per alimentare quello che è l'alimentazione. Comprare la roba all'interno, scusate la voce rotta, ma è un momento molto delicato, però loro possono comprarsi le lamette, e quindi lui aveva con sé una lametta e ha minacciato di uccidersi. E allora hanno chiamato il responsabile del reparto G12, la quale lui stava parlando appunto il giorno delle rivolte, è andato lì e l'ha convinto, ha detto: va bene, andiamo a telefonare a mamma. E lui gli diceva: perché mia madre sta male, lo devo avvertire, lo sai come sta la salute mia madre. E ha potuto farmi questa telefonata, dopodiché mi ha attaccato e io lì ho messo in moto tutta una macchina di capire, di sapere, di cercare, di fare ricerche su Pierpaolo. E ho chiamato subito il garante dei detenuti, dottor Stefano Anastasia, che mi hanno ricontattato nell'immediato. E Re Bibbia non mi rispondeva, veniva attaccato e contattato il mio legale addirittura gli è stato detto che non era accaduto nulla, che Pierpaolo lo poteva vedere il giorno successivo tramite videotelefonata. Questo non è avvenuto, perché questa notte Pierpaolo è stato trasferito nel penitenziario di Mamma Gialla a Viterbo, cosa che i trasferimenti notturni non si fanno, perché bisogna pagare tutti quelli che sono straordinari, bisogna chiedere agli assistenti che lavorino di notte, che già sono pochi, per poter trasferire un detenuto. La domanda è: perché Pierpaolo non doveva denunciare la mattina successiva quanto era accaduto? E che Pierpaolo mi urlava lì all'avvocato di far sequestrare i video, i filmati, perché non sarà come raccontano loro. E il mio legale ha fatto già richiesta della PEC, sia del referto medico di Pierpaolo, e non ha avuto ancora risposta, alla direttrice del carcere, sia del referto Covid. E i motivi: stamattina quando lei ha chiamato Re Bibbia gli è stato detto, lei dicendogli: guardi, mi ha chiamato la mamma, mi ha detto che l'hanno trasferito al carcere di Viterbo. Mi ha detto: no signora, non è così, Cipollone è stato trasferito a Civitavecchia. Vi rendete conto quanta, come potrei dire, come stanno, ma quante bugie, quanta falsità c'è in tutto questo. E ora l'avvocato è andato a Viterbo, ha potuto vedere Pierpaolo e mi ha detto di stare tranquilla, la situazione è quella che ha descritto lui, che ci muoveremo in maniera con la giustizia. E io domani mi recherò da Pierpaolo a portargli almeno quelli che sono, qualche soldo per poter avere un dentifricio, avere uno spazzolino da denti. Pierpaolo è un ragazzo molto pulito. Allora, sì. In qualsiasi modo tu possa farglielo sapere, digli che qua c'ha delle persone che gli stanno vicine e che non è solo. Anche noi staremo attenti a quello che sta riguardando a lui e agli altri detenuti per e detenute di Rebibbia, perché sono figli di mamme, fratelli, sorelle. Nel diritto umano non c'è la violenza. Un uomo può sbagliare, può cadere, ma non per questo deve diventare carne da macello. Non per questo un altro essere umano possa fare violenza. Nel momento in cui dovrebbe essere un recupero, ma il recupero nel carcere non c'è. Questo ormai lo dico e lo affermo dal giorno della carcerazione di mio figlio, perché mio figlio si è iscritto a scuola, caso Covid, scuola chiusa. Quando a scuola vanno solo i detenuti, non vengono da fuori. Se la maestra è negativa al tampone, la professoressa o chiunque possa entrare a scuola, non vedo perché interrompere quelle poche ore di recupero sociale, di recupero proprio loro, psicofisico. E che altro dire? Mio figlio ha chiesto di entrare a far parte della squadra del rugby perché è un rugbista. Gli viene risposto: poi vedremo. Non voglio dilungarmi e dare spazio a voi e far sentire realmente quanto è difficile vivere sia dentro un carcere ma fuori da un carcere, perché a noi ci viene sempre detto che va tutto bene, non succede nulla, il Covid non c'è. Non è così. Una protesta pacifica si è rivelata un massacro umano. E mi permetta solo di dire una cosa, quello che ho messo anche sul mio social Facebook: in questo momento lo Stato si sta coprendo di un omicidio di massa, e questo è inaccettabile. Lo Stato non fa nulla per le carceri, per i detenuti, per i stessi assistenti che lavorano lì dentro. Noi siamo solamente un numero, familiari, ma loro invece non sanno neanche quello, non hanno neanche un numero, sono carne da macello. Ascolta, insomma, non vogliamo dire frasi banali, rispettiamo il dolore di questo momento. Se hai voglia ci sentiamo anche nelle prossime ore, ci aggiorniamo un pochetto, ma insomma lo sai, noi supportiamo sempre le proteste, proviamo a dargli voce, proviamo a partecipare in ogni modo e non mancheremo neanche ai prossimi appuntamenti, ecco. Grazie di avermi dato voce, di aver potuto parlare di questa situazione così brutta, sì, a nome di mamma lo dico, per mio figlio, ma soprattutto per tutti i detenuti che stanno vivendo un momento così drammatico, padri di famiglia che non vedono più i propri figli, perché Rebibbia non concede più ai minori neanche di entrare due volte al mese. È assurdo. Ascolta, ci sentiamo nelle prossime ore, intanto un abbraccio fortissimo. Grazie. Da qui. Grazie a te, grazie e a tutte le persone care, e fai arrivare a tuo figlio la nostra solidarietà. Grazie a tutti voi. Ecco, siamo ancora su Zernis Magnetics, programma in onda su Radio Onde Furlane ogni giovedì dalle 20 alle 21.30 circa. E dopo questa testimonianza, appunto, tratta da Radio Onda Rossa, vi leggo un volantino dell'Assemblea No CPR Friuli Venezia Giulia, un volantino di ricordo di Vakhtang Enukidze, che un anno fa è stato ammazzato praticamente all'interno del CPR di Gradisca. Un anno di lager di Stato, un morto ogni sei mesi nel CPR di Gradisca. Non siamo appassionati di anniversari e ricorrenze, ma l'anno appena trascorso ha lasciato dietro di sé una lunga scia di morti uccisi dallo Stato e per questo ci ha lasciato anche alcune certezze. Oggi, 18 gennaio 2021, appunto il volantino è stato scritto in questa occasione, è un anno esatto da una tra le prime di queste morti, quella di Vakhtang Enukidze, ucciso nel CPR di Gradisca, ammazzato, secondo i testimoni, dalle botte ricevute dalle guardie armate della struttura. A seguito della sua morte, tutti i testimoni furono deportati, i loro cellulari sequestrati, la famiglia di Vakhtang, in Georgia, subì forti pressioni per non prendere parte a un processo penale e ad oggi non è stato comunicato alcun esito ufficiale dell'autopsia sul corpo. In soli sette mesi, quindi, ci sono state due morti nel CPR di Gradisca, una a gennaio e una a luglio, e due morti nelle carceri regionali, un detenuto giovanissimo di Udine ed un altro a Trieste, entrambi, secondo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per overdose. A marzo, nelle carceri italiane, ci sono stati altri 14 morti, ufficialmente sempre per overdose. In seguito alle rivolte sviluppatesi in oltre 30 penitenziari, al grido di indulto e libertà, dopo la diffusione incontrollata del Covid-19 al loro interno e l'annuncio della sospensione dei colloqui con i familiari. Grazie al coraggio, alla testimonianza e ai video inviati dai reclusi del CPR di Gradisca a gennaio 2020, sappiamo che Vakhtang è morto ammazzato dalle botte ricevute qualche giorno prima dai suoi carcerieri, mentre resisteva per rimanere fuori dalla cella a cercare il suo telefono. I giornali locali, nel raccontare la vicenda, hanno riportato fin da subito le parole del prefetto Massimo Marchesiello che, se in un primo momento blaterava di una rissa tra detenuti, poi è passato ad attribuire la morte a un edema polmonare che, evidentemente, colpisce spesso chi viene pestato a morte, come successe anche a Stefano Cucchi. È sempre solo grazie ai racconti dei detenuti del CPR che si sa anche che il 14 luglio Orgest Turia è morto in seguito a un'overdose e un suo compagno di stanza è scampato alla stessa sorte. Allora la prefettura goriziana, assieme alla sindaca Tomasinčić e al personale interno, ha dapprima diffuso la voce di una morte per rissa. Poi ha sfruttato la narrazione infame dei detenuti tossici e dello spaccio di sostanze all'insaputa dei carcerieri. In realtà Turia non era tossicodipendente, era un uomo di origini albanesi, portato in CPR una settimana prima perché era stato trovato senza passaporto. Sedativi e psicofarmaci sono abbondantemente distribuiti all'interno del CPR, come in ogni altra prigione, sia al fine di inibire e controllare gli individui più inclini a rivoltarsi, sia perché le condizioni degradanti cui sono sottoposti i reclusi spesso li portano a chiederne essi stessi la somministrazione per sfuggire ad una realtà quotidiana invivibile. A Gradisca è incaricata di questo la cooperativa padovana ed ecco che quando non si occupa di asili nido è specializzata nell'ammassare migliaia di donne e uomini richiedenti asilo nelle strutture che gestisce, dove spesso si muore, come a Conetta, in provincia di Venezia, dove nel 2017 trovò la morte una donna, Sandrine Bayakoyo. Lo scorso 20 novembre, cinque detenuti presenti nel carcere Sant'Anna di Modena durante le rivolte dell'8 marzo scorso hanno presentato un esposto alla procura di Ancona per denunciare quanto hanno visto e subito in quei giorni. Hanno raccontato di centinaia di uomini in divisa che hanno puntato le armi contro i detenuti, sparando e uccidendone 9, e dei successivi pestaggi di massa sui prigionieri inermi, proseguiti anche durante i trasferimenti ad altre carceri. Insomma, con buona pace di procure, prefetture, questure, TV e giornali, l'overdose c'entra sempre poco. Il copione è sempre lo stesso, provare ad insabbiare l'accaduto, imbastendo alla svelta false verità ufficiali che stravolgono i fatti, trovare qualcuno da incolpare, i detenuti stessi, criminali e tossici, vaghe regie esterne, terrorizzare e rimpatriare in fretta e furia i testimoni, come dopo la morte di Vakhtang e Ordgest. I parallelismi tra carceri e CPR non finiscono certo qui. Entrambi sono manifestazioni fisiche di oppressione, tortura, ricatto, isolamento, annichilimento e morte, entrambi destinati, nella grande maggioranza dei casi, a quella umanità di scarto che non vuole o non può piegarsi ai ricatti dello Stato e del capitale o che è nata con il documento sbagliato. Che tutte quelle mura possano cadere. Solidarietà ai prigionieri e alle prigioniere e a tutti e tutte le rivoltose e i rivoltosi. A chi è o sarà in fuga dal CPR, i nostri migliori auguri. Sì, continuiamo con interventi così contro la repressione, contro il carcere, per annunciare due iniziative contemporanee che ci saranno questo sabato 23 gennaio, una a Udine e una a Trieste. Allora, a Udine, come tutte e due le iniziative sono organizzate dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, che in questa situazione si sdoppia, diciamo. Abbiamo pensato comunque di organizzare queste iniziative di strada, nonostante le difficoltà, diciamo, delle persone a partecipare a causa di queste maledette zona arancione in cui ci troviamo, e quindi anche se magari non saremo tantissimi numericamente, abbiamo pensato che era importante non lasciare passare troppo tempo prima di fare queste iniziative. Allora, Udine è un'iniziativa controinformativa di strada. Sarà in Piazza della Repubblica, che è praticamente in fondo a via Roma, in fondo a via Roma, insomma, nei pressi quindi della stazione dei treni. E ci sarà anche la mostra, una mostra, insomma, quella stessa mostra che è stata proposta anche a Trieste, se vi ricordate, appuntamenti precedenti di Zardins Magnetics avevamo parlato di questa iniziativa contro lo Stato e le sue stragi. Sono state due appuntamenti contro lo Stato e le sue stragi, e contro lo Stato, diciamo, e la sua vigliaccheria assassina. E c'è questa mostra interessante, insomma, che parla un po' di tutte le operazioni repressive, ma anche del militarismo dello Stato, insomma, così, controinformativa appunto. E poi ci saranno quindi questa mostra e poi interventi al microfono vari. E vi leggo il breve volantino di chiamata: contro la repressione dello Stato che colpisce dentro le carceri e fuori. I segreti di una rivolta, così ha titolato il quotidiano La Repubblica del 17 gennaio, in riferimento alle sommosse scoppiate in tutte le carceri italiane tra l'8 e il 9 marzo scorsi. Quali sarebbero questi segreti? È presto detto, chi dice la verità sul potere rischia la propria pelle. La verità su quelle rivolte non è un presunto decreto svuota carceri, ma bensì l'assenza o il malfunzionamento della sanità nelle carceri, e l'emergenza Covid-19 l'ha messo ben in evidenza. La stessa assenza della sanità è emersa in questo lungo anno nelle strutture di assistenza, nei luoghi di lavoro, nei quartieri e qui fuori. Lo Stato ha orchestrato il clima di terrore e la gestione repressiva dell'emergenza. È successo però che 5 prigionieri testimoni di quanto è accaduto in marzo al carcere di Sant'Anna di Modena abbiano restituito un'altra realtà dei fatti, facendo uscire un esposto, portando così alla luce la responsabilità dei morti, dei pestaggi e delle umiliazioni. Per questo hanno già subito intimidazioni varie. Il minimo che si possa fare è portare un po' di questo coraggio nelle strade e nelle piazze e ricominciare a lottare contro chi ci vuole disgregare, chi ci obbliga al silenzio e ci vorrebbe suo complice. Assemblea permanente contro il carcere e la repressione. E allora, preciso che, poiché questa iniziativa prevede anche la mostra, se sabato ci dovesse essere un tempo da lupi, cioè una pioggia scrosciante, l'iniziativa si svolgerà sabato 30. Je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant. ne sera pas un gosse de riche. Ça feignant, ça feignant. Oh, ça feignant, ça feignant. Tu vivras content. Ça feignant, ça feignant. Oh, ça feignant, ça feignant. Tu vivras content. Ça feignant, ça feignant. Oh, ça feignant, ça feignant. Tu vivras content. Ça feignant, ça feignant. Oh, ça feignant, ça feignant. Tu vivras content. Ça feignant, ça feignant. Oh, ça feignant, ça feignant. Tu vivras content. Ça feignant, ça feignant. Oh, ça feignant, mon enfant. À revenir d'Alcor. Continuiamo con la presentazione di due iniziative che si svolgeranno sabato prossimo, quindi sabato 23 gennaio. Prima abbiamo detto della mostra Presidio, microfono aperto contro la repressione dentro e fuori le carceri a Udine in Piazza della Repubblica dalle ore 14.30 e adesso presentiamo il presidio che ci sarà sempre sabato 23 gennaio dalle ore 14 a Trieste davanti al carcere del Coroneo. Anche qui vi leggo il volantino. Fuori a un metro di distanza, dentro otto in una stanza. Saremo davanti al carcere del Coroneo per denunciare l'ipocrisia assassina dello Stato e solidarizzare con i prigionieri e le prigioniere. Mentre all'esterno lo Stato impone il distanziamento sociale per coprire le sue enormi responsabilità nei tagli alla sanità, facendoci pagare un prezzo altissimo nella presente crisi sanitaria ed economica, le carceri continuano ad essere sovraffollate, prive di misure di prevenzione, di un'assistenza sanitaria degna e di condizioni igieniche minime. Il virus si propaga nelle carceri, facendo ammalare centinaia di prigionieri, talvolta uccidendo, ma il governo, le istituzioni e i politici se ne fregano. Anzi, in nome del delirio securitario, bloccano i termini di prescrizione e di custodia cautelare durante l'emergenza, tenendo la gente in galera il più possibile. Ma non è solo il virus che uccide nelle carceri. Circa almeno ogni tre giorni le carceri producono un morto, suicidi, malattie varie, overdose e violenze delle guardie. A marzo 2020 13 detenuti sono morti durante le rivolte successive al blocco dei colloqui. La versione ufficiale parla di overdose di farmaci e metadone, ma la verità sulla sanguinosa repressione di Stato sta emergendo grazie al coraggio di alcuni prigionieri sopravvissuti. Il carcere produce violenza, ma è violenza di Stato, quindi va bene, anzi deve produrla, perché così rimane un monito per tutti noi, per tutti i proletari e gli sfruttati, specie in tempi di crisi come questi. Non sia mai che qualcuno venga in mente di ribellarsi. Al monito permanente del carcere, all'ipocrisia e alla violenza di Stato, rispondiamo con la solidarietà, l'unità e la lotta. Assemblea permanente contro il carcere e la repressione. Ecco, quindi vi ricordo che queste due iniziative, una a Udine e una a Trieste, sono in contemporanea, questo sabato 23 gennaio, circa dalle ore 14 a Trieste e 14.30 a Udine, e sono entrambe organizzate dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione. Disparata! Una storia disparata! quando si smarrisce ci potrà essere male. Dire che prima, durante l'intervento, abbiamo ascoltato dei brani musicali di una band francese, gli Infraction, che era un loro mini CD uscito nel 1996, mentre adesso ci stiamo ascoltando questa band della zona del Lago di Garda, i Raukers. Non mi piacciono i quadri storti. Non mi piacciono i quadri storti. Non mi piacciono i quadri storti. Ciao a tutti e a tutte. Ricorrono 5 anni in questi giorni del rapimento, tortura e uccisione di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito in Egitto il 25 gennaio del 2016 da parte dei servizi segreti del generale Al-Sisi. Giulio Regeni svolgeva ricerca su quelli che erano i movimenti di opposizione e in generale i movimenti politici e sociali del paese arabo. Un paese che aveva visto negli ultimi anni forti rivolgimenti. Pensiamo alla caduta del regime decennale di Mubarak, grazie alle rivolte di massa, poi all'elezione di Morsi, e quindi all'affermazione dei fratelli musulmani, e infine al golpe che aveva appunto portato al potere il generale Al-Sisi, golpe militare. Sulle specifiche motivazioni, sul perché Giulio Regeni fece quella fine, possiamo fare diverse ipotesi. Certo è che una vulgata piuttosto infame, a mio avviso, che gira su un Giulio Regeni, agente dei servizi inglesi, e, poiché effettivamente egli venne ingaggiato dall'università inglese per svolgere questa ricerca e faceva riferimento quindi a delle autorità accademiche britanniche. È un'ipotesi, secondo me, che offende la sua memoria. Un agente dei servizi non avrebbe fatto sicuramente quella fine. Probabilmente Giulio Regeni ha fatto quella fine perché non doveva e non poteva confessare nulla ai suoi torturatori, che li volevano estorcere delle verità a forza di violenze inenarrabili. Giulio Regeni è finito dentro una macchina di violenza che è quella del regime egiziano, dove viene condannato, dove vengono eseguite condanne a morte quotidianamente, per lo più di oppositori politici, dove ci sono 60.000 prigionieri politici, dove dall'instaurazione del regime militare si parla di fino a 43.000 scomparsi, desaparecidos. Che poi la vicenda di Giulio Regeni sia inquadrabile, è vero questo, in un contesto internazionale particolare, denso di contraddizioni, questa è una realtà. Che l'imperialismo italiano e l'imperialismo inglese si siano in un certo senso contesi il mercato egiziano, i rapporti con la giunta militare di Al-Sisi è un'altra realtà. Come è vero che il regime egiziano e l'imperialismo italiano nelle vicende libiche si sono trovate su due fronti contrapposti, l'uno a sostenere il governo di Tobruk, l'altro, l'Italia, l'imperialismo italiano, a sostenere il governo di Tripoli. Parlo ovviamente delle vicende della guerra civile successiva all'intervento imperialista nel 2011 contro Gheddafi. Tutto questo è vero, e dunque c'è in un certo senso una narrazione che a livello politico e a livello mediatico, giornalista, esula da queste contraddizioni. Lo slogan Verità per Giulio Regeni è stato svuotato dal contesto politico reale della situazione egiziana, del Nord Africa, dell'interventismo imperialista e soprattutto dagli interessi italiani nell'area e nello specifico in Egitto. Perché se è vero che Egitto e Italia si sono per certi versi fatti una guerra per procura per quanto riguarda la Libia, hanno patrocinato diversi governi, i due diversi governi che si contendevano al controllo della Libia, e così come è vero che altre potenze sono intervenute in quel conflitto, come la Francia, anch'essa schierata col governo di Tobruk, col generale Haftar, come l'Egitto e ugualmente l'Inghilterra, è vero che l'Italia ha tranquillamente continuato a fare affari dall'altra parte con l'Egitto. Forse questa vicenda di Regeni è stata utilizzata anche in un certo senso come pressione politica generale su quel regime, ma i dati insomma parlano chiaro, parlano di una penetrazione di capitali italiani che riguarda innanzitutto il gas, con lo sfruttamento del più grande giacimento di gas del Mediterraneo che si trova nelle acque territoriali egiziane da parte dell'ENI. E poi il giro di affari in armi enorme che riguarda l'Italia e l'Egitto. Solo nel 2019 l'Egitto ha acquistato 871 milioni di armi italiane. La crescita della vendita di armi all'Egitto da parte italiana è avvenuta proprio nel 2016, con aumenti esponenziali di anno in anno per il riarmo della giunta militare. Ricordiamo poi il dicembre scorso, quando Fincantieri ha consegnato all'Egitto una fregata che parte di un ordine del valore di 1,2 miliardi per l'industria bellica italiana. Ecco, questi dati rendono chiaramente l'ipocrisia del governo e delle istituzioni italiane nella vicenda di Giulio Regeni e in generale in tutta la retorica sui diritti umani che viene spesa, soprattutto in materia di politica estera, perché è chiaro che герої на екрані, ти останешся їх тінью. Їм золоті гори, тебе в череп не дира. Діти олігархів, вори, сутіньори, опіра. Сказки о наркотиках, стволах, клубах, режут ухо. Деньги і успех на крові, давай не пуха. Титани духа учат убивать для потехи. Моральні вопроси лихо щелкать, как орехи. Герої в этом мире есть, они здесь рядом. Ти скользишь мимо замутнених пропаганди взглядом. Срасує той розпад, чином осмедіана. Si potrebbe dire molto in proposito sulle condizioni interne italiane. Guardiamo le carceri, guardiamo i CPR, guardiamo anche la gestione dell'ordine pubblico negli ultimi tempi su questa vicenda, sulla vicenda dell'emergenza sanitaria, insomma sull'emergenza sanitaria. Se ne potrebbe dire molto. E quindi quello che mi interessava di dire è che questa campagna che viene fatta mediaticamente sulla verità per Giulio Regeni è una campagna fortemente, fortemente ipocrita, a mio modo di dire, piuttosto vuota. Non che non bisogna avere rispetto del dolore e della determinazione dei genitori nel chiedere la verità, ma la verità politica, la verità su questa vicenda è chiara. Giulio Regeni è stato ucciso dai macellai egiziani, dai macellai del regime di Al-Sisi, come molti altri oppositori egiziani. Questo regime, seppur con rapporti per certi versi contrastati, è armato e finanziato dall'Italia e dalle altre potenze imperialiste europee. Questa è la verità. Для таких, как вы, детей страны, холодно, жестокость и зимы. Твой гимн — это трек. quando Matteo Renzi era presidente del Consiglio italiano, disse: Al-Sisi combatte la nostra stessa guerra, a proposito della lotta al cosiddetto terrorismo in Nord Africa. Quindi insomma, che poi questa guerra abbia fatto un morto italiano, o che adesso sia detenuto uno studente dell'Università di Bologna, Patrick Zacchi, sono per certi versi dei particolari, non per sminuire l'importanza di quelle vicende, ma solo dei particolari rispetto a quello che è la realtà di quei regimi e dei rapporti che hanno con il nostro imperialismo, con altre potenze. Ecco, quindi la verità per Giulio Regeni è piuttosto, dal mio punto di vista, è piuttosto questa, ecco. La verità rivoluzionaria, diceva qualcuno, è, in questo caso la verità ci rimanda alle responsabilità in casa nostra dell'imperialismo italiano e alla necessità di lottare, perché la barbarie non è lì, la barbarie parte da qui. Un'ultima cosa, il 30 gennaio a Trieste, sabato 30 gennaio, in Largo Barriera, alle ore 10, ci sarà un presidio promosso da vari gruppi triestini. Si parlerà di Giulio Regeni, si ricorderà Giulio Regeni e si ricorderanno queste responsabilità, la responsabilità anche dell'industria militare italiana, che è soprattutto pubblica, ricordiamo, e che ha continuato a produrre armi in questo periodo di emergenza sanitaria, e ricorderà ai passanti, io lo ricordo in questo momento a tutti, dove vengono spesi i soldi pubblici nella produzione e nel commercio di armi. Ricorderà che in Italia abbiamo 231 fabbriche di armi e solo una di respiratori polmonari, tanto per additare altre responsabilità rispetto alla situazione in cui ci troviamo in questo momento nel nostro paese. Ecco, quindi, per chi volesse, l'appuntamento è anche per chi può, anche perché viviamo in epoca di privazione del diritto alla mobilità, per chi può e chi vuole, Largo Barriera, il 30 gennaio a Trieste, per ricordare Giulio Regeni e per ricordare le responsabilità, io dico le responsabilità dell'imperialismo italiano e la necessità di lottare contro le barbarie che abbiamo qui, il nemico che abbiamo qua alle spalle, senza pensare che qualcuno, che il male sia esotico e venga da chissà dove. Трафик по заранку вывернуться наизнанку, поднять стиль, все, что заработал, слил на банк. Все равно берут друг, пренебрегая синяками, с красными глазами, корпят ночами над битами. Биты намотаны плотно, зубы сжимают капу, пинают демона в стремлении к новым этапам. Битам на лапу, закрыто дело, шумут их, зарабатывать нормально, вытаскивать своих, заплатить ренту, не попасть в происшествие ленту. Будь не трудные, енутые, цени моменты. Кто в нее, кто ползет вперед, с кем ты? Прыжок из грязи в грязи, из агентов президенты. Это твой гимн, это трек, летаки как мы. Детей страны, холода, жестокости зимы. Твой гимн, это трек, летаки как ты. В царстве немоты нас ненавидят менты и шуты. Это твой гимн, это трек, летаки как мы. Детей страны, холода, жестокости зимы. Твой гимн, это трек, летаки как ты. В царстве немоты нас ненавидят менты и шуты. Еще один день прошел, ты еще жив. Взгляд назад преодолев слабости позыв. Мотив и фальшив, серой массы злой писк. Поле к жизни воздвигает черный обелиск. Новый риск, новый раунд, старая игра. В разных лагерях теперь парни со двора. Затягивает жизни судьбы черная дыра. Мясорубка ненависти, кровавая жара. Глубокая нора, или небо твой, ли это выбор. Герой или изгой, царский трон или дыба. Надежды нету, поверил, и ты на дне. Всегда два гетто, в реальности. совести и в голове. Правды две, угольное ушко ворота. Огонь и сера над Гоморой, жена Лота. Фортуна выберет кого-то, не моя забота. Ведь та, которую я жду, уже стоит в поте. Это твой гимн, это трек, я такие, как мы. Детей страны, холода, жестокости зимы. Твой гимн, это трек, я такие, как ты. В царстве немоты нас ненавидят менты и шуты. Это твой гимн, это трек, я такие, как мы. Детей страны, холода, жестокости зимы. Твой гимн, это трек, я такие, как ты. В царстве немоты нас ненавидят менты и шуты. E abbiamo ascoltato adesso e anche prima durante gli interventi, abbiamo spezzato con le musiche di questa band russa, i Moscow Death Brigade, e anche siamo giunti ormai al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics in diretta radiofonica ogni giovedì dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20:15 circa alle ore 21:30. E prima di salutarci e anche far partire un ultimo brano, vi ripeto i nostri contatti per chi volesse scriverci. Il nostro contatto mail è allora i nostri contatti. Il nostro contatto mail è liberetutti@autistiche.org. Ve lo ripeto, contatto mail liberetutti@autistiche.org. Mentre per chi volesse scriverci una lettera, insomma la classica posta cartacea, ci può scrivere a questo altro indirizzo, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, 34 139 Trieste. Vi ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 139, Trieste Centro, 34 139 Trieste. E mentre stiamo anche ascoltando in sottofondo questa band di Bologna, i Spoiled, vi ricordo anche che potete riascoltare questa trasmissione e comunque anche quelle passate da questo diciamo blog, che si trova ovviamente in radio ed è Zardins Magnetics Radio. noblogs.org. vi ripeto anche questo, Zardins Magnetics Radio. noblogs.org. quindi ci salutiamo, l'appuntamento è per il prossimo giovedì, sempre qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Ciao a tutti.